pietra che acqua che piove e scorre non cambierà, e che lo stesso fa, stesso farà con chi si ferma e dalla riva la guarderà. Potresti dirle che l'aurora riflette tutti quanti i sogni che cattura, e nasconderle, nasconderle così, che si tratta di una piccola avventura. Senza chiederti per quanto ancora ti verrà donata. C'è chi spreme per un modo per sentirsi bene. C'è chi gioca a far l'amore per dimenticarsi tutte le sue pene. Mm-hmm.